l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'emergenza coronavirus in Italia fa registrare non pochi problemi al trasporto delle merci e alle imprese, che nonostante la crisi stanno tentando di non bloccare la produzione. I provvedimenti attuati dal governo per limitare il contagio non riguardano il transito dei mezzi adibiti alla movimentazione delle merci, garantito infatti su tutto il territorio nazionale. Diversa però la situazione al di là dei confini. È il caso del Brennero, dove il governo austriaco ha stabilito misure di controllo sia per i lavoratori transfrontalieri sia per i tir provenienti dall'Italia. Gli autisti dei mezzi pesanti, quindi, sono sottoposti a una serie di verifiche, fra cui la misurazione della temperatura corporea, controlli che però provocano l'allungamento dei tempi di attraversamento del confine. Il primo giorno di attuazione delle verifiche, ad esempio, si è creata una coda di 90 km. Tutto ciò si traduce in maggiori difficoltà lavorative, oltre che in una crescita sostanziale del costo di ogni singolo passaggio di camion. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che sta soffrendo, ovviamente, sta stringendo i denti in questo periodo, ma grazie al quale tutto l'approvvigionamento all'interno delle case degli italiani è garantito nei supermercati e non solo, nei prodotti alimentari, i trasporti farmaceutici in questo momento sono caratterizzati e sono garantiti dal trasporto su strada, ma un trasporto che sta vivendo, anzi ha vissuto anche particolari criticità per quanto riguarda la movimentazione con l'estero, in particolare al Brennero, che è un punto di passaggio di primaria importanza per le merci italiane. Pensate che il 70% delle esportazioni su gomma transita da lì. Ci sono state, e non è una novità, delle tensioni con l'Austria, soprattutto legate ai controlli alle frontiere. Ci sono stati, pensate, durante la settimana code anche di 80-90 km per poter superare quel varco, difficoltà superate per fortuna grazie all'intervento del governo sollecitato anche dalle associazioni di categoria. E noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo prima, innanzitutto un plauso all'autotrasporto che in questo momento sta davvero garantendo al paese la sopravvivenza e si sta sacrificando in maniera importante per poter garantire la distribuzione delle merci nella nostra Italia. Sì, a questo proposito occorre comunque considerare che a seguito degli ultimi provvedimenti, che vengono praticamente chiusi tutti gli esercizi commerciali, negozi e così via, non alimentari, le nostre reti distributive subiranno delle problematiche nei prossimi giorni e settimane, perché una rete distributiva solo col prodotto alimentare difficilmente può stare in piedi. Senz'altro ci saranno allungamento dei tempi, ma soprattutto ci saranno aumenti dei costi, perché portare solo pochi pacchi di vino o di alimentari costa logicamente di più che non abbinato ad altri prodotti. Certo, e poi dicevamo ci sono le difficoltà internazionali, in particolare i trasporti internazionali che al Brennero durante la settimana hanno visto delle difficoltà crescenti, che però intorno al giovedì si sono praticamente risolte. Cosa è successo? Sì, purtroppo, come spesso succede, i nostri vicini austriaci, la regione del Tirolo ha utilizzato il tema del coronavirus a fare di nuovo una politica di impedimento ai trasporti in transito per l'Austria per arrivare ai mercati nordici. L'Italia è un importante fornitore per tutte le società produttrici tedesche del nord Europa, che tuttora lavorano, non è come in Italia che tante attività sono anche bloccate e hanno bisogno di queste forniture dell'Italia. Il Tirolo ha deciso di controllare, nonostante che aveva annunciato che lo facesse solo sporadicamente o a campione, a controllare tutti gli autisti che passavano al Brennero per che non abbiano il coronavirus, misurando la febbre e così via. Questo logicamente ha comportato un intasamento della frontiera che poi si è avuto un colonna fino a 90-80 chilometri fino a Mezzano e di più, con migliaia di artisti che di notte hanno dovuto stare sull'autostrada senza servizi sanitari ed altro. Ecco, per cercare di trasferire delle merci dalla strada alla ferrovia si sta utilizzando sempre di più appunto lo strumento dell'intermodalità e quindi della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando nello stesso momento la gomma, il mare, la ferrovia. Avete firmato proprio in settimana un documento congiunto con tante altre associazioni che si occupano di intermodalità proprio per evitare che ci siano problemi all'interno di questo tipo di trasporto. Perché? Che cosa sta succedendo? Sì, noi avevamo paura, siccome si diceva che in, soprattutto in Lombardia, ma anche il Veneto, si volesse chiudere anche i trasporti, questo avrebbe avuto un riflesso ovviamente anche sulla capacità di trasporto e il trasporto combinato, perché se non si trasporta in Veneto e in Lombardia tutti i maggiori porti intermodali ferroviari nei quali vengono trasferite le merci sui treni che poi partono per il nord Europa non si avrebbe più potuto fare, perciò veniva interrotta anche questa catena di trasporto combinato, che di per sé è impossibile che possa far diffondere il virus, perché sappiamo che l'autista non segue la merce e la merce non può trasportare il virus, per questo sarebbe stato veramente un peccato interrompere anche questa catena logistica. Certo, un peccato, e soprattutto avrebbe avuto delle conseguenze importanti sulla distribuzione finale delle merci e quindi anche delle conseguenze sui cittadini. In questo momento stiamo vivendo una situazione di emergenza, ovviamente lo dicevamo prima, i trasporti sono in prima linea. Cosa bisognerà fare una volta che tutto questo sarà passato per far sì che questo sistema finalmente possa essere improntato alla massima efficienza? Ma io ritengo che l'Italia e dentro in Europa il 70% delle merci dell'export dell'Italia vanno verso i paesi dell'Europa e per forza devono passare le Alpi. Attraverso le Alpi il cordone ombelicale che l'Italia collega al nord Europa è proprio il Brennero, bisogna assolutamente trovare finalmente quella soluzione in comune con l'Austria e con la Germania che permette all'infrastruttura di reggere il traffico necessario. Dico infrastruttura perché bisogna parlare sia di ferrovia ma anche di strada. La ferrovia da solo per il Brennero non potrà mai, anche con la nuova galleria del Brennero, subire o portare tutta la merce che deve passare su questo passo. Per questo i politici veramente devono trovare una soluzione nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della popolazione che vive su quest'asse. Abbiamo visto come all'inizio dell'anno fossero davvero tanti e diversi i problemi, le problematiche da affrontare per questo settore, tutte sono passate ovviamente in secondo piano con l'emergenza. Una volta che sarà ripresa l'attività a regime, quali sono secondo lei i punti che vanno subito affrontati negli incontri fra associazioni di categoria e governo? Ma soprattutto bisogna proseguire sulla strada del rinnovamento del parco autostradale, automezzi in Italia. Oggi abbiamo ancora troppi automezzi che hanno i cosiddetti motori Euro 3, che sono ormai vecchi oltre 14 anni, non ha senso che questi mezzi ancora circolano. Speriamo che il governo vada avanti a togliere per questi mezzi qualsiasi sovvenzione di minori accise o di minori pedaggi autostradali, in modo che il parco venga rinnovato il più presto possibile con i nuovi Euro 6. Chiediamo che vengano portate avanti le sovvenzioni per investire in altri mezzi tecnologicamente ancora più moderni, come i motori con gas liquido che hanno molto meno inquinamento, e dobbiamo puntare ormai ai nuovi camion elettrici tramite l'idrogeno. Certo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Thomas Baumgartner, presidente di Anita. L'appuntamento con la rubrica di approfondimento dedicata al mondo dei trasporti e della logistica torna, come al solito, sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.